Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Varato il piano per il salvataggio del Portogallo, le riunioni della Banca Centrale Europea e della Bank of England, la corsa di Mario Draghi per la guida dell'Istituto di Francoforte, la corsa inarrestabile delle materie prime, i mutui e gli immigrati, questi temi di cui ci occuperemo in questa puntata di Economia in Europa. Varato il piano per il salvataggio del Portogallo, vale 78 miliardi di euro, 12 dei quali destinati alle banche. Per concederli, Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea chiedono dei sacrifici molto importanti a Lisbona, fra cui il congelamento di salari e pensioni, tagli al pubblico impiego, agli investimenti nelle grandi opere, alla spesa per sanità ed educazione, accelerazione nelle privatizzazioni, aumento delle imposte, ricapitalizzazione delle banche, riduzione dei sussidi di disoccupazione e riforma del mercato del lavoro. Parliamo adesso di commodity ed inflazione, un binomio che oramai sembra procedere di pari passo, l'aumento dei prezzi al consumo che si sta registrando a livello globale. Nella maggior parte dei casi è la conseguenza diretta della crescita dei valori delle materie prime che incidono sui costi dei prodotti finiti, oltre che sui prezzi di benzina e riscaldamento e non ultimo sui generi alimentari. Il commento di Maurizio Mazziero, analista finanziario esperto di materie prime. Le asset class, quando siamo in presenza di inflazione, comunque vengono erose dall'inflazione, cioè noi ci troviamo che l'inflazione va a erodere quelli che sono i potenziali rendimenti sia delle asset class tipo obbligazioni che azionari. Però io sul discorso della speculazione di cui si fa tanto parlare ho un'opinione un po' contrastante, nel senso che sicuramente il flusso di investimento, il flusso di denaro nel breve termine va a influire, quindi a portare della volatilità, mentre invece nel medio e lungo termine stiamo parlando esclusivamente di domanda e offerta. Allora la CFTC, che è la commissione di regolamento dei future americani, e la Commissione europea non hanno trovato un legame tra gli alti prezzi, ad esempio, che ci sono stati già nel 2008 del petrolio con la speculazione, cioè non è stato trovato un legame diretto fra queste cose. E bisogna pensare che, eccetto l'investimento nei metalli preziosi, quindi oro, argento, platino e palladio, dove effettivamente il flusso di investimento si traduce in un segregare dei lingotti di metallo prezioso in un cavò, per tutto il resto stiamo sempre parlando di domanda e offerta, perché altrimenti noi dovremmo domandarci come mai aumenta anche il ferro che non è quotato nei mercati finanziari, oppure le terre rare, oppure potremmo dire, non so, la barbabietola piuttosto che altre materie prime. Quindi sul discorso in realtà si fa tanto parlare di speculazione, potrebbe essere uno specchietto per allodole. Vorrei arrivare anche a quello che è il discorso climatico, però ecco, io devo ricordare che proprio l'anno scorso, quindi nel 2010, io ho fatto degli interventi in convegni di Italmopa, che è l'associazione che riunisce le aziende molitorie, come anche per la Confagricoltura, ecco, e in effetti io ricordo che tutti si lamentavano per il basso livello del frumento. Beh, allora a questo punto, se è stata l'inflazione, benedetta l'inflazione, che perlomeno riesce a portare ai coltivatori perlomeno a coprire i costi, perché da quello che mi dicevano non coprivano nemmeno i costi. Ma tornando alla partenza del prezzo nel 2010, è proprio stato dagli incendi di vaste porzioni di territorio in Russia. Però dobbiamo pensare che in realtà quello che noi stiamo vivendo è che c'è un acuirsi generalizzato dei disastri climatici. Mi riferisco ad esempio anche alle inondazioni in Australia, oppure talvolta troviamo delle siccità. Ecco, anche questo fatto che siamo continuamente pervasi dagli effetti del Niño oppure la Niña, anche questo sta mutando in maniera drammatica diciamo quelle che sono le condizioni, quindi poi quelle che sono le rese dei raccolti. A proposito di questo, vorrei anche dire che c'è stata anche una risalita del costo dei prodotti energetici e poi anche del costo dei concimi chimici, quindi talvolta non si utilizzano o si utilizzano in misura inferiore i concimi chimici e le rese dei terreni diminuiscono e quindi diminuisce l'offerta. Non solo, ma dobbiamo anche dire che talvolta i margini dei coltivatori vengono spinti in basso dalla grande distribuzione. La strada che porta alla presidenza della Banca Centrale Europea si sta aprendo per Mario Draghi, così la pensa il Financial Times, che all'indomani dell'appoggio ricevuto dal governatore di Banca Italia dal giornale tedesco Bild lo consacra come successore di Jean-Claude Trichet. Un signore euro è consacrato, titola il quotidiano della City, che dedica un lungo articolo a Draghi per il quale la strada per Francoforte si sta aprendo. Il Financial Times ricorda infatti che Draghi è sostenuto da Parigi ed è prossimo ad averla vinta anche su Berlino. Sentiamo il parere del presidente francese Sarkozy. Lo appoggiamo perché è italiano, ma lo appoggiamo perché è un uomo di qualità. Ma è in più, è anche italiano. Sarà un ottimo segnale da trasmettere a tutti gli italiani che possono mettere in dubbio il ruolo e il posto che occupa l'Italia in Europa. È importante che un italiano abbia questo incarico e sono stato felice di sentire la Presidente Berlusconi che sarebbero pronti a sostenere la candidatura di un francese nell'ambito del direttorio della BCE. Quali sarebbero i vantaggi per l'Italia se il numero uno di via nazionale dovesse diventare Presidente della Banca Centrale Europea? Il commento del professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino ed editorialista della Stampa. Ma ecco, scordiamoci che Draghi faccia l'italiano, cioè tanto per essere chiari che abbia un occhio di riguardo, ci sia qualche raccomandazione per le banche italiane. Il vantaggio che l'Italia avrebbe deriverebbe dal fatto che Draghi conosce la situazione italiana e quindi può basarsi su giudizi e non su pregiudizi, quindi può dare una valutazione onesta alla potenzialità e ai problemi delle banche italiane e non invece una valutazione deformata appunto dai pregiudizi come qualche volta è successo a esponenti della finanza internazionale. Ma io penso che a mente fredda Tremonti dovrebbe essere contento, perché ottiene due vantaggi. Il primo è che nella corsa alla direzione di un possibile governo tecnico scompare il suo antagonista più importante, ma il secondo è che in un posto vitale, perché le manovre che l'Italia dovrà fare siano valutate correttamente, c'è un italiano. E quindi potrebbe avere, se lui magari mai fosse il futuro presidente di un'Italia che deve fare delle manovre un po' strettine, sa che c'è a Francoforte qualcuno che sa esattamente come vanno fatte queste manovre e non si farà prendere da giudizi faciloni che in qualche modo anti-italiani. Messico 7,5%, Thailandia 5%, Nigeria 4,3%, Italia 4,1%. È una parte della classifica per rapporto tra patrimonio dei fondi pensione e prodotto interno lordo, graduatoria che vede l'Italia agli ultimissimi posti mondiali. E quanto emerge da uno studio presentato in occasione della Giornata Nazionale della Previdenza. Secondo la Banca d'Italia, i fondi pensione rappresentano poco più dell'1% delle attività finanziarie delle famiglie italiane, contro il 13% di quelle tedesche e il 27% di quelle statunitensi. Intesa San Paolo Previdenza è il leader italiano nel settore della previdenza complementare. Economia in Europa ha chiesto al direttore generale Andrea Lesca quali sono le prospettive del settore. Le prospettive sicuramente ci sono. Oggi un italiano, un occupato su 5 ha una forma di previdenza complementare. Molto spesso si cerca di leggere se questo è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io direi più mezzo pieno, in quanto l'adesione volontaria, c'è ancora una percezione di una pensione pubblica ancora molto generosa, e quindi se vediamo anche altre esperienze, per esempio internazionali nel Regno Unito, dove insomma ci sono forti processi di alfabetizzazione finanziaria dalla scuola e un regime volontario, sono poco meno di un 50% degli occupati. Quindi abbiamo ancora molta strada da fare, c'è ancora molto bisogno di fare molta informazione a scuola, nelle aziende e in occasioni anche come questa. Sicuramente i giovani sono una categoria che per motivi sia legati all'attuale, ma non credo che sia soltanto attuale, diciamo un cambiamento del mondo del lavoro che prevederà una maggior discontinuità, situazioni di contratti diversi, contratti più a tempo determinato. Sia importante porgli l'attenzione fin da subito al tema di previdenza pubblica e di previdenza complementare. Quindi sui giovani, sui lavoratori delle piccole e medie imprese che hanno meno possibilità magari di attivare forme di welfare welfare aziendale, dove insomma gli esempi più virtuosi sono sicuramente caratterizzati da multinazionali o da grandi imprese. Questi sono ambiti in cui occorre ancora fare molto, e qua sia operatori privati come noi, come un gruppo Intesa San Paolo, che operatori assicurativi e gli altri attori della previdenza complementare sicuramente devono focalizzare il loro sforzo proprio per una crescita e uno sviluppo non soltanto di quantità di volumi, ma soprattutto di qualità. I lavoratori autonomi si stanno attivando per costruirsi una previdenza complementare? Beh, anche i lavoratori autonomi diciamo che sono soggetti che fin dall'inizio hanno certe disponibilità come i liberi professionisti per accedere anche alla previdenza individuale. Già prima c'erano alcune forme più assicurative, oggi a quelle assicurative diciamo che hanno più una connotazione finanziaria, oggi si sono aggiunte anche quelle più di previdenza complementare. La sensibilità c'è, le riforme hanno toccato anche il mondo del lavoro autonomo e della libera professione, di conseguenza c'è ancora molto anche in quell'ambito da dover lavorare, ma sicuramente sono un ambito su cui una certa sensibilità è già abbastanza maturata da tempo. Potrebbero esserci delle riforme a livello istituzionale che potrebbero aiutare una maggior crescita della previdenza complementare? Beh, le ricette si sprecano, sarei veramente, non voglio fare l'immodesto, però in un regime volontario come questo sono veramente soltanto le occasioni di incontro, di confronto. Quando noi abbiamo la possibilità, l'opportunità di parlare in un'assemblea, in un'azienda, per un'ora e mezza parliamo di cosa è la previdenza pubblica, dove trovano il TFR nel loro CUD, queste sono le informazioni che bisogna dare. Dopo un'ora e mezza si parla di perché è importante la previdenza complementare e dopo che le abbiamo sfiancati per 2 ore si parla del nostro prodotto. Quindi la ricetta secondo me sono i momenti di informazione come questi, ma ritengo che questo sia soltanto una prima tappa. E ora parliamo di mutui. Mentre l'Euribor prosegue la sua corsa destando non poche preoccupazioni fra tutti coloro che possiedono rate a tasso variabile e il governo ha allo studio un tetto per i meno abbienti, ha destato particolare interesse una ricerca presentata nei giorni scorsi da mutui.it, in base alla quale è emerso che l'11% delle richieste di mutuo online provengono da stranieri. In testa ci sarebbero i cittadini romeni con il 32,4% del totale. Che caratteristiche ha l'immigrato che compra la sua prima casa e che tipi di finanziamento chiede? Sentiamo Alberto Genovese di mutui.it. L'importo medio richiesto è di 132.000 euro, che è tipicamente l'80% del valore dell'immobile, quindi numeri in linea con quelli che sono le richieste medie del mercato italiano. Sono leggermente più giovani, con con età media al momento della richiesta del mutuo di 35 anni. I romeni sono diventati la prima comunità solo recentemente, al secondo posto invece rimane la comunità di albanesi, che è storicamente delle presenze molto forti in Italia. Chiaramente una forte concentrazione nelle zone del nord e del centro Italia, dove ci sono le maggiori opportunità di lavoro e quindi il maggior afflusso di immigrati. Le pretese tendono a sestarsi su immobili, su case con un valore un po' più basso, parliamo di 165.000 euro contro i 200.000 del valore dell'immobile tipico in Italia. La richiesta è tipicamente di poco superiore all'80% del valore dell'immobile contro un 75% della media nazionale. Le banche chiaramente fanno attenzione nel momento in cui erogano un mutuo a far sì che la probabilità di rientrare, quindi che il rimborso, sia la più alta possibile, e dalle loro analisi risulta che tra gli immigrati i cittadini rumeni siano quelli che hanno una maggiore percentuale di rientro e quindi ai quali più facilmente le banche possono erogare un maggior grado di affidabilità. Corretto. I meno affidabili quali sono ritenuti invece? In generale alcuni paesi del Nord Africa. Per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.